GR Europa. Complimenti all'Italia per l'impressionante risultato nell'avere ridotto il deficit di trasposizione delle norme UE. Sentiamo il servizio. Per una volta l'Italia ha smentito lo stereotipo di pecora nera d'Europa. I complimenti arrivano addirittura dalla Commissione europea, che ieri ha definito impressionanti i risultati della penisola nella riduzione del deficit di trasposizione delle normative comunitarie all'interno delle leggi italiane. Roma ha portato questo deficit dal 2,4 allo 0,8%, tagliando un traguardo storico. Mai prima d'ora, fanno notare da Bruxelles, l'Italia era scesa sotto la soglia dell'1%. Un'operazione cominciata, coincidenze della storia, nel novembre 2011 con l'avvento del governo Monti a forte trazione europeista. È stato proprio l'attuale esecutivo a spacchettare la cosiddetta legge comunitaria, dividendo trasposizioni delle direttive europee e procedure di infrazione. La mossa ha snellito l'intero iter, permettendo così di centrare il traguardo. Anche se, fanno notare sempre da Bruxelles, l'Italia resta il paese con il maggior numero di procedure di infrazione aperte, oltre 60, seguita da Spagna e Grecia. La trasposizione di direttive e regolamenti europei nella legislazione nazionale rappresenta solo l'ultima tappa di un lungo iter che prevede spesso la codecisione a livello europeo tra governi ed Europarlamento. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora in Africa, più di 1000 militari americani, europei, africani ed arabi hanno iniziato esercitazioni su vasta scala nella zona sud-orientale della Mauritania, dunque vicino al confine con il Mali. Tutto questo mentre prende il via formale la missione militare europea e di addestramento nel paese africano. Una decisione storica, come è stato definita dal generale Patrick de Rousier, presidente del Comitato Militare dell'UE. Su questo tema abbiamo sentito Emma Bonino, sentiamola. Non ne ho la più vaga idea e temo che non ce l'ha più nessuno, perché la missione in Mali era stata costruita per essere, come dire, efficace a partire da settembre-ottobre, pensi un po'. E poi improvvisamente veniamo avvertiti che ci sono tre colonne di jihadisti che puntano su Bamako, reazione francese, copertura sostanzialmente politica, oltre che un po' tecnica, degli altri paesi europei e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Personalmente quello che penso è che non esiste una soluzione militare in questo conflitto, che la soluzione può essere solo accompagnata politica, che vuol dire separare i Tuareg dai jihadisti e che vuol dire prendere in considerazione le esigenze e le recriminazioni dei Tuareg, che non sono nuove visto che la prima rivolta Tuareg è del 1962. Su tutto questo ovviamente plana una cosa pazzesca, cioè la capacità totale di informazioni e di intelligence, ivi compreso il ruolo sufficientemente ambiguo giocato poi dall'Algeria. A me sembra molto molto complicato, su cui eravamo assolutamente indietro anche solo dal punto di vista dell'intelligence e delle informazioni. L'avanzata jihadista è stata stoppata, mi auguro si creino le condizioni per una soluzione politica. L'UE deve impegnarsi maggiormente nella rimozione di tutti gli ostacoli che ancora si frappongono al pieno esercizio della cittadinanza europea, 20 anni dopo la sua introduzione. È il messaggio che arriva oggi dall'Europarlamento, dove si è svolta un'audizione nell'ambito dell'anno europeo del cittadino. Tra le preoccupazioni principali dei cittadini UE ci sono infatti le limitazioni della libertà di movimento e dei diritti politici. E con questo abbiamo concluso. In regia Roberto Scaltritti, Gigi Donelli al microfono. GR Europa torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.